Platone, Repubblica, libro quarto. E Adeimanto, prendendo la parola, cominciò: «Quale argomento di difesa, o Socrate, potrai trovare se qualcuno ti facesse osservazione che tu non concedi davvero a questi uomini una felice esistenza? E, circostanza più grave, essi stessi ne sono la causa, essi, nelle cui mani è il governo della città. Per questi custodi il governo non è fonte di vantaggio alcuno. Altri posseggono la terra, altri edificano palazzi sontuosi e grandi che possono poi adornare di conveniente suppellettile. Altri offrono agli dèi per proprio conto sacrifici e offerte. Altri ospitano gli amici. Altri, l'hai affermato poco fa, hanno il possesso dell'oro, dell'argento e, insomma, di tutto ciò che l'opinione comune ritiene necessario a un uomo felice. È proprio vero, dirà il tuo interlocutore, costoro fanno la figura di vivere nella città in condizione di ausiliari stipendiati, cui solo incombe il compito di far la guardia. Eh sì, risposi, anzi, guadagnano soltanto il vitto. Oltre al cibo, non prendono, come gli altri stipendiati, nessuna mercede. Ne viene una conseguenza. Ammesso pure che in loro venga desiderio di fare un viaggio per divertimento, ebbene, nemmeno si potrà concedere tale svago. Così anche non potranno far regali alle donne amiche, non potranno fare insomma quell'uso del denaro secondo il capriccio individuale che agli uomini ritenuti felici e fortunati si concede tuttavia. Questi e altri simili capi d'accusa sono stati ora da te tralasciati. Ma, disse lui, allora vengano anche queste altre accuse. E tu certo domandi quali argomenti di difesa sapremo trovare. Sì, dissi, continuando sulla stessa via, troveremo, ne sono ben sicuro, quanto è necessario. Intanto potremo osservare che non vi sarebbe ragione di meraviglia se anche costoro, pure in queste condizioni, fossero sommamente felici. In ogni caso, mentre si fondava la nostra città, non era questo il nostro scopo, che cioè una classe singola venisse a trovarsi in condizione di benessere particolare. A noi interessava che la città tutta quanta fosse felice. Eravamo convinti che in questo tipo di costituzione avremmo potuto trovare la giustizia, come pure, reciprocamente, l'ingiustizia in uno stato malamente governato, le quali opposte condizioni contemplando avremmo potuto pronunciare giudizio sul problema che da lungo tempo ci affatica. Ora dunque siamo decisi di plasmare veramente la città felice, non a beneficio di pochi privilegiati che come tali vi si debbano locare, bensì a beneficio della totalità. Supponi, per concludere, che dovessimo dipingere coi colori una statua. Ci viene vicino un tale. Egli trova da dire perché alle parti più belle del corpo non applichiamo i colori più belli. Secondo lui gli occhi sono la cosa più bella e noi non li tingiamo con la porpora, bensì con la tinta nera. A simili argomenti troveremo giusta difesa. Strano uomo che sei, non credere che si debbano dipingere così belli gli occhi, in modo che finiscano col non sembrare nemmeno occhi, e le altre parti lo stesso. Devi invece osservare se, anche attribuendo a ciascun organo il suo conveniente aspetto, ci riesca pur sempre di renderlo bello. Così anche ora non costringere ad attribuire ai custodi un genere di felicità che li renda tutto fuorché custodi. Saremmo certo capaci anche noi di rivestire i contadini con lunghe vesti sontuose, di cingerne il collo con ornamenti d'oro e di disporre poi che soltanto secondo capriccio si mettano a lavorare la terra, così pure i vasai. Al loro comodo potranno distendersi presso il fuoco mangiando e bevendo. Potranno avere accanto la ruota e quando ne hanno voglia diremo che magari facciano anche un po' di lavoro. E non ci sarebbe negato di far felici alla stessa maniera gli altri artigiani tutti. E allora l'intera città potrà indubbiamente essere felice. Ma è meglio che tu risparmi un simile consiglio. Se in realtà daremo ascolto alle tue parole, non più il contadino sarà contadino, il vasaio non sarà vasaio, e nessuno potrà osservare una sua caratteristica precisa, nessuno fra quanti costituiscono una città. Ma per le altre categorie la cosa ha minore importanza. Ciabattini che risultano buoni a nulla e vadano a finir male, e affermino d'essere ciò che non sono, non porteranno danno alcuno a una città. Custodi invece di leggi e custodi d'uno Stato che non lo siano veramente, ma che sembrino soltanto, distruggono, vedi bene, tutta la città dalle sue basi. Essi che, soli, possono dare alla loro patria buona amministrazione e felicità. In conseguenza, se vogliamo formare custodi veramente tali, il completo contrario di chi porta danno alla propria patria, e se il nostro interlocutore li forma invece quasi fossero agricoltori, oppure gente lieta a banchetto in festiva adunata, ma non in una vera città, certo costui finisce per parlare d'altra cosa, ben diversa dalla città. Interessa, vedi, considerare un fatto. Vogliamo noi istituire i custodi all'unico scopo che possano godere di straordinaria e immensa felicità? O, piuttosto, la nostra mira non è invece lo Stato nel suo insieme, per vedere se in lui ci potrà essere felicità? A questo scopo dovremo cercare di costringere ausiliari e custodi a fare una sola cosa, diventare perfetti, quanto più è possibile, in ciò che costituisce la loro missione. Essi, e così pure tutti gli altri cittadini. In questo modo, l'organismo della città tutta crescerà vigoroso per buona amministrazione, e soltanto allora si potrà concedere che i singoli siano felici nella proporzione che natura consente. Secondo me hai proprio ragione. E non credi forse, continuai, che un'altra osservazione andrebbe assai bene? Quale precisamente? Osserva se quanto dirò non sia causa invece di danno per i comuni artefici. Certo li rende inetti. Cosa? Ricchezza e povertà. Come intendi? Così. Un vasaio diventa ricco. Credi che vorrà ancora prendersi cura della sua arte? In nessun modo, rispondeva. Diventerà pigro e più indolente di prima. Purtroppo. E non diventerà forse un vasaio più cattivo? Eh sì, rispondeva, di gran lunga. In ogni caso, per reciproca ragione, se povertà non gli consentisse di procurarsi strumenti adatti o altri oggetti del mestiere, lavorerà parimenti in modo assai peggiore. Così pure i figli o gli altri che quale maestro egli viene formando riusciranno meno bravi. Come no? Sono due dunque le ragioni, ricchezza e povertà, suscettive di peggiorare i prodotti del lavoro e gli artefici stessi. È evidente. Abbiamo trovato un'altra serie di fatti che i custodi dovranno attenti osservare perché a loro insaputa non vengano insinuandosi nella città. Ma quali, con precisione? Ricchezza e povertà. In realtà, la prima conduce a mollezza, a inerzia, a studio di cose nuove. L'altra invece a illiberalità, a mala condotta, oltre a pari studio di cose nuove. Hai ragione, concluse lui. Ma stammi attento, o Socrate, con qual mezzo la nostra città sarà in grado di guerreggiare? Non ha possesso alcuno di denaro, e potrebbe anche venire a guerra contro qualche grande e ricca avversaria. È chiaro, risposi, che se si tratta di un solo avversario sarà più difficile. Se sono invece due di questo genere, l'impresa è più facile. Cosa vuoi dire? In primo luogo, continuai, se si deve venire a battaglia, non combatteranno forse contro uomini ricchi, essi che sono campioni di guerra? Già, questo sì, rispondeva. E allora senti, dissi, Adeimanto, non credi che un unico pugile, in perfetto allenamento, potrà combattere facilmente contro due pugili, ricchi tuttavia e forniti di adipe? Forse, ma, rispondeva, non nello stesso momento. Ma neppure se gli si concedesse di mettersi a fuggire e quindi con improvvisa conversione di sbaragliare il primo che gli si para incontro? E questa tattica, supponiamo, si ripete più volte, sotto il caldo sole estivo. Non credi che un tale pugile potrebbe vincere simili avversari? Sì, non ci sarebbe nulla di strano. Ma i ricchi hanno abilità maggiore nel pugilato che non nell'arte della guerra, in teoria e in pratica, non lo credi? Sì, lo credo. Senza difficoltà, allora, questi nostri atleti potranno combattere con avversari due volte e persino tre volte più numerosi. Concedo, mi pare che tu abbia ragione. Ma senti ancora, può avvenire che questi nostri mandino ambasceria presso uno dei due avversari. Sarà certo conforme al vero se diranno: noi non facciamo uso d'oro e d'argento, tutte cose che non sono per noi, per voi sì. E allora fatevi alleati con noi, fate insieme a noi la guerra e prendete pure quanto l'altro avversario possiede. Credi tu che, udendo tale discorso, si preferirà combattere contro cani magri e duri, piuttosto che, alleati a questi cani, guerreggiare contro greggi, molli e pingui? Non mi pare, ma bada, se la ricchezza delle altre città si raccoglie in una sola, ciò costituisce pericolo per la città povera. Oh, sei proprio ingenuo, esclamai. Tu credi che qualche altra città, non quella da noi costituita, possa meritare questo nome di vera città? Ma perché? Domandava. Con nome più grande, dissi, si debbono chiamarle altre. Ciascuna, infatti, è un agglomerato. Molte città, non una. Così dice la gente quando fanno il gioco. Supponi che, in ogni caso, siano due almeno, nemiche l'una contro l'altra. L'una dei poveri, l'altra dei ricchi. E in ciascuna di queste due ve ne sono altre moltissime. E devi guardarti dall'errore comune di trattare quasi fossero un unico Stato. Considerale invece come molte. Potrai dare agli uni le ricchezze e i possessi degli altri, le loro facoltà, le stesse persone. Vedrai quanti alleati potrai trovare, e nemici ben pochi. Del resto, finché la nostra città sia retta in temperata armonia di governo, secondo i criteri ora forniti, sarà grandissima, non certo per fama o per estimazione, ma veramente grandissima. E ciò, anche se soltanto 1000 ne siano i difensori. Una sola città così grande in questo senso non la potrai trovare facilmente, né tra i greci né all'estero, e ne troverai invece molte che hanno apparenza d'essere assai più grandi di questa nostra. O credi diversamente? No, rispondeva. In conclusione, il limite migliore per i nostri governanti è appunto questo. Entro questo limite dovranno accrescere lo Stato, entro queste proporzioni dovranno limitarne l'estensione territoriale e si dovrà rinunciare a ogni ulteriore estensione di territorio. Qual è, chiedeva, questo limite? Credo il seguente: fino al giorno in cui, pur evolvendosi, tenga fermo il proposito d'essere una, fino a tal giorno potrà evolversi a maggiore grandezza, non certo oltre. Sì, e va bene, rispondeva. In conclusione daremo ai custodi pure quest'altro ordine. Dovranno prendersi ogni cura perché la città non abbia apparenza ad essere grande o piccola, bensì abbia realmente una proporzione sufficiente e sia una. Disse, e ti pare che sia un nulla questa prescrizione? Ma la seguente, continuai, è ancora più da nulla. Ne abbiamo fatto menzione poco fa e si diceva che, se venisse alla luce un qualche discendente dei custodi, la cui natura non fosse degna del padre, lo si dovesse mandare presso gli altri delle altre classi. Così pure, se dalle altre classi una natura elevata, presso i custodi, e si voleva significare che bisogna disporre anche gli altri cittadini a quell'unica opera alla quale ciascuno singolarmente è adatto, se si vuole che ciascuno, praticando la propria professione, non divenga molteplice, bensì uno. E per questa ragione, appunto, l'intera città risulterà unica e non molte. Già, sì, rispondeva, questo precetto è veramente da nulla in confronto al precedente. Certo, continuai, caro Adeimanto mio, non si tratta di precetti difficili e nemmeno numerosi come potrebbe sembrare. Basta una cosa sola: mantengano fede a un solo precetto da noi già esposto. È importante, anzi, più che importante, basta per tutto. Quale mai questo precetto? L'educazione dei giovani, risposi, e lo sforzo per allevarli. Nel caso infatti che, bene educati, riescano a maturità armoniosa di vita, potranno intendere chiaramente e con facilità immensa lo spirito di tutte queste prescrizioni e l'altre che possiamo anche trascurare, per esempio le spose, i matrimoni, la generazione dei figli. In realtà, secondo il proverbio, tutto ciò deve essere quanto più è possibile possesso comune d'amici. Sì, e andrebbe bene, rispondeva. Ma, continuai, se una città ha ottenuto una volta per sempre ottimo impulso iniziale, il suo sviluppo si svolge in guisa di cerchio a grandezza sempre maggiore. Educazione, infatti, e buona istituzione, in quanto si mantengano salde, producono buone nature. Così pure, alla loro volta, queste nature convenienti, traendo profitto da un'educazione quale si disse, aprono un fiore più perfetto delle precedenti, sia per attività molteplici, sia per potenza generatrice di novella ottima prole. Ciò del resto accade in tutte le creature. Probabile, rispondeva. Per dirla dunque in poche parole, i responsabili della città debbono fare in modo che, per inavvertita vicenda, il seguente precetto non si corrompa, bensì lo debbono mantenere illeso in ogni occasione, mai introdurre novità nelle istituzioni ginniche e mosaiche, che anzi debbono a qualunque costo essere difese. E timore poi dobbiamo avere quando, per esempio, si dice che l'uomo guarda più benigno quella canzone che cantori nuovissima cantino, canto novello. Timore che forse si interpretino queste parole non nel senso che il poeta voglia accennare a canzoni nuove, ma a un nuovo tipo di canto, e che questa novità egli voglia lodare, il che non solo non si deve fare, ma non si deve nemmeno pensare che questa sia l'intenzione del poeta. Bisogna, insomma, star molto attenti per non accettare innovazioni e cambiamenti nella musica e nelle mosaiche discipline se non si vuol mettere in pericolo l'intera Costituzione. In nessun luogo, ad esempio, si sommuovono le istituzioni musicali senza che ne consegua anche mutazione nelle più importanti leggi dello Stato. Così dice Damone, e io ne sono pienamente convinto. Puoi annoverare, rispondeva Adeimanto, me pure tra le persone convinte. Il presidio più munito, continuai, deve insomma per i custodi fondarsi su questo punto, e intendo sulle mosaiche istituzioni. Ma questa tendenza a violare la legge e la tradizione mosaica si insinua facilmente e senza che l'uomo se ne avvegga. Sì, rispondevo, lo si ritiene quasi uno scherzo e si crede che questa tendenza non produca nulla di male. Già, rispondeva, perché agisce soltanto a poco, prende dimora di soppiatto e si insinua nelle abitudini e nella comune attività, ma trapassa quindi maggiore nelle reciproche relazioni, donde si introduce con grande insolenza, o Socrate, nelle leggi e nei reggimenti di tutto lo Stato, fino al momento in cui finisce per sconvolgere in pubblico e in privato ogni cosa. E va bene, dissi, e veramente è così? Mi pare, rispondeva. E i fanciulli nella nostra città non debbono forse subito, appunto per questo, partecipare, si diceva in principio, a un tipo di giochi più conforme alle leggi? Certo, diventando i giochi contrari alla legge e contrari alla legge lo spirito dei bimbi, riesce impossibile far crescere uomini seri e rispettosi di quella legge. Come no? Quando dunque cominceranno bene fin da fanciulli coi loro giochi, accoglieranno attraverso l'insegnamento mosaico un senso di venerazione per le leggi. Accadrà allora il contrario dei bimbi comuni, e questa venerazione li accompagnerà nella vita e si farà adulta con essi. Sarà capace di sollevare a più retta condizione qualche disordine che si fosse insinuato nella città. È proprio vero, concludeva. E questi cittadini saranno certo in grado di trovare alcuni corollari della legislazione che le precedenti generazioni lasciarono tutti cadere in disuso. Quali? Eccoli. I giovani debbono, ed è cosa conveniente in sommo grado, serbare il silenzio in presenza dei vecchi. Inoltre, cedere il posto e alzarsi in piedi al loro cospetto. Debbono pure onorare i genitori, curare poi il modo di tagliarsi i capelli, curare la foggia delle vesti e dei calzari, insomma, aver riguardo all'aspetto esteriore, e così via per altri particolari. O non credi? Io sì. Metterli in forma di legge è forse un po' ingenuo. È una cosa che in nessun luogo si fa, né d'altra parte potrebbero durare proposti per formula legale e per iscritto. Già, e come? Forse, o adeimanto, dato l'impulso iniziale dell'educazione, conseguono anche e provengono in conformità questi corollari. Non è forse vero che ciò che è simigliante chiama sempre il suo simigliante? Non c'è dubbio. E potremmo dire, ciò che è buono o anche il suo contrario, mette sempre capo terminando in qualche cosa che ne rappresenta la completa espressione, qualche cosa che ha grande vigore. Perché no? Disse lui. In conseguenza, per questi motivi, non vorrei por mano a prescrizioni del genere. Naturalmente, rispondeva. Dimmi ora questo, continuai. Le disposizioni sui mercati, e così pure i contratti commerciali che le parti interessate stringono nei mercati, e, se vuoi, le convenzioni con gli operai, i reciproci litigi, le contumelie, le percosse, le liti giudiziarie e l'insediamento dei giudici, e così pure se vi sono esazioni di imposte o se altre se ne debbono stabilire sui mercati o sui porti, così pure ogni previdenza annonaria di polizia urbana o portuale e simili, tutto ciò avremo ardimento di stabilire con circostanziate leggi? Eh no, non vale la pena, rispondeva, stabilire disposizioni particolari, trattandosi poi di persone oneste e per bene. Il più di queste disposizioni, all'atto pratico della legislazione, le troveranno da soli, con molta facilità. Sì, mio caro, continuai, ma nel caso che Dio conceda loro di portare a salvezza le leggi che prima esponemmo. E in caso contrario, disse lui, continueranno per tutta la vita a stabilirne sempre innumerevoli, continueranno a cercare di migliorarle, credendo sempre di cogliere la perfezione. Vuoi dire che la loro esistenza sarà come quella di uomini infermi e incapaci, per intemperante natura, d'uscire fuori da un regime di vita pernicioso? Indubbiamente. Una bella esistenza davvero passeranno costoro. Per cercar sempre cure e rimedi nulla concludono, cioè sì, una cosa concludono, rendono la loro infermità più variata e più grande. Eppure continua speranza li sostiene che, se qualcuno potrà suggerire un buon rimedio, riacquisteranno certo la salute. Purtroppo, rispondeva, così viene a trovarsi chi è infermo di questo male. E senti un poco, continuai, c'è anche questa cosa che è veramente bella. Se uno dice la verità, lo ritengono fra tutti nemico. Costui forse fa osservare che, se prima non si desisterà dal bere smodato, dal cibo senza misura, dai piaceri sessuali, dall'inerte ozio, non vi saranno medici, non vi saranno cauterizzazioni, non tagli, non incantamenti o amuleti, nessuna cosa insomma ci potrà arrecare vantaggio alcuno. Non mi par mica che sia una bella cosa, rispondeva. Adirarsi con chi parla secondo ragione non è certo una prodezza. Dunque non concedi il tuo plauso a gente di tal genere, così pare. In nome del cielo, no. E neppure nel caso in cui quella città, come ora si diceva, si comporti tutta in tal modo, non concederai affatto il tuo plauso. Questo purtroppo è il costume di tutte le città che, pur mal governate, intanto fanno divieto ai cittadini di sommuovere l'organizzazione dello Stato, e chi fa questo lo puniscono con la morte. Invece, chi concede approvazione e tributo d'onore alla Costituzione vigente, chi si adatta a blandire i desideri della folla e cerca d'andare incontro e di indovinarli prima del tempo, chi è capace di dare soddisfazione, costui sì, sarà un uomo onesto e bravo, un sapiente grande, e sarà tenuto in supremo onore. Sì, rispondeva, si comportano in questo modo, ne sono convinto, e non mi sento di concedere la mia approvazione. E che ne dici su chi cerca di curare queste costituzioni? Chi ci si mette con entusiasmo? Non ne ammiri il coraggio e la condiscendenza? Io sì. Escludi in ogni modo chi è stato tratto in inganno e crede di essere eccelso politico perché sa riscuotere l'applauso delle moltitudini. Come dici? Non ti senti di compatirle queste persone? Supponiamo un uomo ignaro d'ogni concetto di misura e di grandezza. Gli altri, in condizione non diversa dalla sua, continuano a ripetergli che egli è grande 4 cubiti. Ebbene, puoi credere che il nostro amico non finisca per ritenere veramente questa la sua statura? Purtroppo. Non devi quindi prenderla troppo in tragico. Tale tipo di politici è costituito dalle persone più garbate. Propongono le leggi di cui ora si diceva e stabiliscono opportuni emendamenti nella convinzione immutabile di poter trovare un modo per limitare gli abusi nelle relazioni commerciali e nei contratti. In genere, gli inconvenienti di cui ora parlavo, e non sanno che cercano di tagliare il collo all'idra. «Sì, è vero», rispondeva, «in realtà non fanno nulla di più». In conseguenza, crederei che un vero legislatore non debba proporre leggi e regolamenti di questo tipo in una città ben governata come in una male governata. In una male governata perché sarebbe inutile e nulla concluderebbe, nell'altra invece perché ognuno dei cittadini le potrebbe trovare per conto suo simili leggi, e d'altra parte le buone abitudini stesse ne darebbero incentivo. Che cosa dunque ci rimane per completare la legislazione? E io continuai: a noi nulla. Ad Apollo in Delfi rimane la cura di importantissime, bellissime e fondamentali disposizioni legislative. Quali? Disse. Fondare i templi, disporre i sacrifici e ingerere il culto di dei, il culto di demoni e di eroi. Così pure la cura delle tombe e di tutte quelle cerimonie che ci concedono di aver benigni i trapassati. Esattamente non le sappiamo nemmeno in quella che fondiamo la città, e nemmeno vorremmo acconsentire ad altri di persuaderci in proposito, seppure accorto il nostro modo di agire. L'unico di cui seguiremo il consiglio sarà il Dio dei nostri antenati. Questo Dio, infatti, si offre per dar consiglio su argomenti del genere a tutti gli uomini, patrio consigliere, dalla sua dimora presso il centro della terra, nell'ombelico della terra. Hai perfettamente ragione, concludeva, e si deve far così. E allora abbiamo finito. Ecco, la città fondata è ormai, o figlio di Aristone. Ora volgi in quella per conto tuo lo sguardo e procurati d'onde che sia un'opportuna luce, e chiama in aiuto per questa operazione il fratello tuo e Polemarco e gli altri. Dobbiamo vedere, se ci riesce, dove sia giustizia e dove ingiustizia, e quale differenza appunto interceda. Così pure, chi deve essere felice dovrà possedere giustizia o ingiustizia, e non conta affatto il caso che tutti gli dèi e gli uomini abbiano cognizione della cosa, come pure il caso contrario. Non va bene così, disse Glaucone, perché hai fatto promessa di una ricerca completa, affermando che sarebbe stata un'azione empia se non avessi portato aiuto in ogni maniera, per quello che potevi, alla giustizia. Quanto mi richiami alla memoria è tutto vero. Certo, si dovrà fare in questo modo, ma conviene che anche voi mi prestiate aiuto. Certo, rispondeva, faremo così. E allora m'aspetto, dissi, di risolvere il problema col seguente metodo. Credo che se la nostra operazione è stata condotta nel modo dovuto, la città dovrà essere veramente buona. Sì, è necessario, rispondeva. Chiaro dunque che sarà sapiente, forte, temperata, giusta. Chiaro. E non è forse vero anche questo? Quando via via avremo trovato le singole virtù presenti nella costituzione della città, l'ultima virtù che non abbiamo ancora trovata sarà né più né meno contenuta nella rimanente parte che rimane da indagare. Sì, e cosa ne consegue? Voglio dir così. Supponi, ci sono 4 cose qualsiasi e noi ne cerchiamo una sola. Supponi che la riconosciamo subito per prima, questa cosa. L'opera nostra sarebbe fornita. Al contrario, se prima ne avessimo avuto notizia soltanto di 3, anche per questo modo si potrebbe conoscere la cosa singolarmente cercata. È manifesto che sarà, né più né meno, la sola ultima restante. Hai ragione, rispondeva. E non si deve forse svolgere allo stesso modo la nostra ricerca su queste virtù? Vedi bene, sono 4. Vedo benissimo. E mi pare che nel complesso di cui trattiamo, ben chiara e manifesta in primo luogo sia la sapienza. Anzi, guarda, è un fatto un po' strano. Quale? Domandò lui. Mi pare che davvero sapiente sia la città di cui abbiamo parlato. La decisione accorta e prudente vige in essa, o no? Sì. E insomma, su questo punto non c'è da discutere. La decisione accorta e prudente è una forma di sapere. Perché, è cosa nota, non certo con l'ignoranza, ma col sapere si prendono prudenti e accorte decisioni. Chiaro? Ma in uno Stato questi aspetti del sapere sono molti e di diverso genere. Come no? E ti par forse che per il sapere o per l'abilità dei carpentieri una città si possa chiamar sapiente e ricca d'assennato consiglio? In nessuna maniera, rispondeva, per questo sapere, bensì la si potrà chiamare abile nell'arte del carpentiere. Allora una città non si chiama sapiente perché ci sia un'abilità di fabbricare utensili e oggetti di legno, o perché la città decida come meglio possa venir trattata quest'arte. Eh no? Senti allora, e l'abilità che provvede agli oggetti in metallo e le altre arti del genere? No, nessuna. E nemmeno l'esperienza che provvede alla generazione dei frutti provenienti dalla terra, essa concerne l'agricoltura? Mi pare di sì. Senti un po', dunque, dissi, esiste forse una particolare scienza nella città da noi ora fondata presso qualcuno dei suoi cittadini? Una scienza con la quale non si decida su singoli fatti che avvengono nella vita dello Stato, ma bensì su tutto lo Stato nella sua totalità, e si decide precisamente in qual modo possa comportarsi sia in se stesso sia nei rapporti con gli altri Stati. Ma sì che c'è. Quale? Chiesi. E in chi la si trova? E lui. È la scienza che appartiene ai custodi. La puoi trovare precisamente in quei capi che ora chiamavamo perfetti custodi. Come chiami la nostra città per questa scienza, dunque? Capace di saggia decisione e veramente sapiente. Poi continuai. Credi forse che ci saranno nella nostra città in numero maggiore i fabbri o questi perfetti custodi? Molto di più, rispondeva, i fabbri. Non è forse vero, gli dissi, che i custodi saranno in numero minimo tra quanti posseggono una particolare scienza e ne hanno il nome? Certamente. In grazia dunque di questo piccolissimo gruppo, parte minima della città, e in grazia della scienza che esiste in questo gruppo distinto e suscettivo di responsabilità, la città intera fondata secondo costituzione dell'ideale natura si può ritenere sapiente. E questo gruppo, per forza di cose, è assai esiguo. A lui poi spetta rivivere in sé questa scienza che, sola tra le altre, deve chiamarsi sapienza. Perfettamente vero, rispondeva. Questo elemento, dunque, tra i quattro, non saprei in qual modo l'abbiamo trovato, non solo particolarmente, ma il luogo della città dove risiede. Mi pare, concluse, che sia già stato trovato in modo sufficiente. Ma nemmeno è molto difficile scorgere la fortezza, quale singola virtù, e il luogo della città ove si trova. Certo, per la sua presenza, la città si deve chiamar forte. Come? A quale altra parte, dunque, dissi, se non a quella che combatte e fa le guerre per difesa della città, si può volgere lo sguardo nostro e dire in conseguenza che la città è vile o forte? Nessuno potrebbe dir qualcosa, egli rispondeva, volgendo lo sguardo verso qualche altra parte. Già, credo bene, continuai, gli altri che in essa dimorano, per essere vili o valorosi, non potranno far sì che la città abbia questo o quel carattere. No, certo. Allora forte e valorosa è la città per una singola sua parte, perché in questa parte vi è la possibilità di mantenere sempre illeso ogni giudizio sulla vera entità dei pericoli, soltanto ritenendo tali quelli di cui il legislatore stabilì il criterio nella sua istituzione educativa, e non chiami appunto così la fortezza. Rispondeva, non ho capito bene ciò che hai detto, ma ripeti. Per conto mio, continuai, affermo che il valore è un certo mezzo di preservare. Preservare come? L'opinione che ci è stata infusa per mezzo dell'educazione legale. Ed è codesta un'opinione di cose che costituiscono pericolo, quali siano e quali ne siano le qualità. E dissi di doversi mantenere sempre illeso questo giudizio, intendendo che, pur nei dolori, lo si deve mantenere, nei piaceri e nell'urto delle passioni, nei terrori, né mai lo si deve buttar via. E se sei contento, ti voglio dire una similitudine per mostrarti a che cosa, secondo me, assomiglia questa fortezza. Sì, lo voglio. Saprai dunque, cominciai, che i tintori, ogni volta che vogliono tingere la lana in modo che assuma un colore di porpora, cominciano intanto a scegliere tra i molti colori il bianco soltanto. In un secondo tempo preparano queste lane più bianche, discernendo con grande attenzione quelle suscettive di ricevere nel modo migliore il puro fiore della porpora, e così procedono alla tintura. E le lane che, così preparate, ricevono la tintura, risultano indelebili. Quando si lavano, vuoi senza ranno, vuoi con ranno, non se ne può diminuire lo splendore. Sai bene come risultano invece le lane tinte con altri sistemi, sia che si tratti di altri colori, sia anche di queste lane bianche, ma non convenientemente preparate. So bene, rispondeva, stingono facilmente e non sono buone a nulla. Devi capire dunque che anche noi, secondo le nostre forze, svolgevamo un simile lavoro, quando si sceglievano i soldati e li educavamo per mezzo di ginniche e di mosaiche istituzioni. E devi pur credere che l'unico scopo dei nostri sforzi era che, in pienezza di volere, quei soldati accogliessero in sé la legge, come lana tinta riceve colore. Era nostro scopo che quelle menti ricevessero una indelebile impronta sul modo di valutare i pericoli e le altre contingenze della vita. Appunto per questo, possesso di una natura buona sostenuta da opportuna educazione. Certo, il ranno non avrebbe mai potuto scolorire una tintura di questo colore. Sono tinte veramente indelebili codeste. Così nemmeno il piacere, la cui azione è ben più potente di quella del nitro e della lascivia, nemmeno il dolore, il timore e la passione, ben più corrosivi di ogni altro detersivo. Appunto, questa capacità che apporta salvezza e integrità per tutta la vita a un nostro retto e giusto giudizio, questa capacità di discriminare le cose che sono causa di paura e quelle che non lo sono, io la chiamo fortezza, e tale la ritengo, a meno che tu non abbia contraria idea. Oh, esclamò lui, nulla da obiettare. Infatti un'opinione, sia pure esatta, intorno agli stessi fatti, ma che sorge e si svolge senza opportuna educazione, come potrebbe essere in una bestia e in un servo, mi pare che non abbia affatto carattere duraturo e che tu la chiami con nome diverso da quello di fortezza. Hai ragione, risposi. Ammetto dunque che questa sia la fortezza. E continuai. Devi ammettere che si tratta di una virtù civile, e giusta sarà la tua affermazione. In un successivo momento, del resto, se vuoi, possiamo discutere meglio su questo punto. In realtà, non era questo lo scopo della nostra indagine, bensì volevamo cercare la giustizia. Quindi, se si tratta di ricercare la fortezza, mi pare, basta così. Va bene, rispondeva, hai ragione. E poi cominciai. Mancano ancora da trovare, nella nostra città, due di queste virtù, temperanza e giustizia. In vista di quest'ultima, anzi, tutta questa ricerca si svolge perfettamente. E come allora potremo trovare giustizia senza perdere tempo e fatica a indagare su temperanza? Io, per conto mio, non lo so, e nemmeno vorrei che la giustizia ci si discoprisse prima del tempo, senza aver fatto cioè ricerca sulla temperanza. Bensì, se mi vuoi fare un favore, cerca di fare indagine prima su questa e poi su quella. Sì che voglio, dissi. Avrei torto in caso contrario. E allora guarda bene, rispondeva. Già, bisogna guardare, continuai. E a guardar la cosa, così, di qua, la temperanza assomiglia più che le precedenti virtù a una concordia di suoni e a un'armonia. Come? La temperanza, in un certo senso, è ordine e dominio su taluni piaceri e su passioni. Si dice in proposito, ha il dominio di se stesso, volendone, non saprei come, significare questo carattere, e vi sono altre frasi che ne esprimono altre caratteristiche, quasi orme di lei o segni, non credi? Senza dubbio, rispondeva. Ma questa frase, dominio di se stesso, non ti pare ridicola? È un fatto, chi è più forte sarà anche più debole di se stesso, e il più debole più forte. In tutte queste espressioni si parla pur sempre della medesima persona. Perché no? Ma queste espressioni vogliono dire, mi pare, che nell'uomo, considerandone l'anima, v'è qualche cosa di migliore e di peggiore. In conseguenza, se quanto per natura è migliore ha superiorità sull'elemento peggiore, questa condizione si esprime con la frase più forte di se stesso, ed è frase laudativa. Invece se, per cattiva educazione o per cattive abitudini, l'elemento migliore ma meno comune sia preso sotto l'imperio di una maggioranza deteriore, si intende biasimare questa condizione e si dice allora che costui è più debole di se stesso e senza freno. Certo, è un fatto, rispondeva. Allora, volgi lo sguardo, dissi, verso questa nostra città giovinetta e potrai trovare presenti l'uno di questi due casi. Non c'è dubbio, infatti, la chiamerai più forte di se stessa, dato che un organismo in cui l'elemento migliore domini sul peggiore, si deve pur chiamare temperato e signore di se stesso. Guardo, sì, rispondeva, e hai ragione. In ogni caso, specialmente nei bimbi, nelle donne, nei servi, e in genere nella maggioranza degli uomini da nulla, che pur si chiamano liberi, si possono trovare passioni molte e d'ogni genere, piaceri e dolori. Non c'è dubbio. Invece, potrai incontrare sensi misurati e semplici, governati dalla mente e sostentati dal ragionamento d'una retta opinione, soltanto in quegli uomini che abbiano anche, oltre a buone doti naturali, una completa educazione. È vero. E non vedi che questa condizione si verifica nella città nostra? Quivi le passioni, caratteristiche della folla e degli uomini da nulla, sono dominate dalle passioni e dalla saggezza dei pochi e dei bravi. Sì che vedo. Ma allora, quale città vorrai chiamar signora dei piaceri e delle passioni e signora di se stessa, se non questa nostra? Non v'è dubbio alcuno, rispondeva. E non forse anche temperata, per tutte queste ragioni? Ma certo. E appunto, non troveremo nessun'altra città, esclusa la nostra, in cui sudditi e capi abbiano la stessa opinione sugli uomini cui affidare la reggenza dello Stato. O non credi? Ma certo, rispondeva, e molto. E in quali cittadini dirai che, date queste premesse, è presente la temperanza? Nei capi o nei sudditi? Mi pare evidente, rispondeva, negli uni e negli altri. E non vedi dunque, dissi, era buona la nostra divinazione. Si diceva poco fa che temperanza è simile a una certa armonia. Perché mai? Perché questo non avviene per la fortezza e per la sapienza. Ciascuna di queste due virtù si trova per conto suo in una singola parte. E l'una rende lo stato sapiente, l'altra forte e valoroso. E quest'ultima virtù, la temperanza, invece non agisce per tale modo. Si estende attraverso a tutte le parti della città, precisamente come attraverso a tutte le note in una scala d'ottava, e produce un supremo concetto d'armonia. E con giusta nota trovi il canto dei più deboli, dei più forti e di quante sono classi intermedie. Ecco allora la voce del senno e del consiglio. Ecco, se vuoi, la voce della forza, la voce del numero, se vuoi, della ricchezza e così via di seguito. Insomma, questa interiore concordia si può chiamare temperanza, cioè un'armonia naturale della parte inferiore e superiore che esprime quale delle due debba governare, sia nello Stato sia in ogni altra individuale e singola attività. Certo, mi par proprio così. E va bene, conclusi. Eccoli di fronte al nostro sguardo, così mi pare almeno, questi tre elementi. La città nostra risulta formata in seguito al loro concorso. Continuando quindi, e quale sarà la rimanente specie di virtù per cui la città potrà aver partecipazione con virtù un'altra volta? È chiaro, si tratta della giustizia. Chiaro? Dunque, o Glaucone, è necessario che ora facciamo molta attenzione, mettendoci tutti in giro, come fanno i cacciatori talvolta per qualche macchia o cespuglio, e badar bene che non ci scappi via e, senza che ce ne avvediamo, si dilegui dalla nostra vista. È chiaro, la giustizia è in qualche parte di questo luogo. Guarda dunque e cerca di osservare attentamente. Può darsi che tu la veda prima di me e che me ne possa dar comunicazione. Oh, fosse vero. Rispondeva, ma piuttosto ti verrò dietro, cerca così di servirti dell'opera mia. Se sarò soltanto in grado di scorgere ciò che dalla tua perspicacia mi viene mostrato, e questo sarà il miglior uso che potrai far di me. Ebbene, vieni dietro, dissi, fa una preghiera e vieni con me. Farò questo, sì, soltanto tu devi essere mia guida. Ma veramente il luogo, continuai, pare molto impervio. Quante ombre, quanto scuro. Difficile trovare la traccia, ma insomma, conviene procedere. Sì, procedere, rispondeva. E io, guardando attento, evviva, evviva, Glaucone, una piccola traccia l'abbiamo tuttavia, e mi par d'essere sicuro, non ci sfuggirà di mano. Magnifico annunzio, disse lui. Oh, davvero, esclamai. Abbiamo fatto una figura da sciocchi. Quale figura? Da un pezzo, beato te, fin dal principio, per chiaro modo, ci stava davanti e non ci riusciva di scorgerla. Bella figura abbiamo fatto. Proprio come chi ha una cosa in mano e continua a cercare questa cosa che già possiede. E noi non volgevamo lo sguardo su lei e cercavamo intanto di guardar lontano e in qualche altra parte. In tal modo, per poco anche, sfuggiva alle nostre ricerche. Come intendi? Chiedeva. Così, continuai, perché mi pare che ne parlassimo da un bel pezzo. Ascoltavamo queste parole e non si capiva che in certo modo accennavano proprio a lei. Che lunga introduzione per chi ha vivo desiderio di udire. E io, allora ascolta se ti par che vada bene. La giustizia, né più né meno, è quella cosa che necessariamente l'uomo deve praticare e osservare. L'abbiamo detto fin dalle prime parole, quando stavamo fondando la città. Questa cosa ha appunto, o almeno come mi pare, una sua specie particolare. E si concludeva: non c'è dubbio, ripetendo più volte, seppur ricordi, che ciascun cittadino deve praticare una sola attività delle molte che riguardano la vita civile, quell'attività alla quale è particolarmente disposta la sua naturale inclinazione. Sì, dicevamo infatti così. Insomma, si affermava che attendere al proprio compito e non disperdere la propria attività in occupazioni vane e inutili è appunto la giustizia. Del resto, questa definizione l'abbiamo udita da molti ancora e noi stessi sovente l'abbiamo ripetuta. Sì, l'abbiamo ripetuta. In conclusione, mio caro, dissi, quando questo fatto si verifica, è in certo modo la giustizia fare ciascuno il proprio compito. Sai d'onde desumo questa definizione? No, spiegamelo, rispondeva. Mi pare, cominciai, che nella città la parte rimanente delle virtù che abbiamo considerate, cioè la parte rimanente di temperanza, di fortezza, di sapienza, sia appunto ciò che a tutte queste virtù offre la possibilità di essere nella città stessa. Questa fondale virtù, finché tra quelle si trova, dà integrità e sostentamento. Del resto, si disse che la parte rimanente, una volta tutte e tre scoperte, sarebbe stata appunto la giustizia. Sì, necessaria conseguenza, rispondeva. Supponi una cosa adesso. Dobbiamo giudicare quale di queste virtù, trovandosi nella città, potrà particolarmente renderla perfetta. In tal caso, sarebbe difficile pronunciare un giudizio. Forse l'accordo di capi e di sudditi? Oppure nei difensori l'illesa tradizione di un criterio su situazioni perigliose o meno, la sapienza e la buona custodia, compito dei capi? O invece non è forse precisamente questa postrema virtù? Trovandosi in fanciulli, in donne, in schiavi, in uomini liberi, in artigiani, in capi, in sudditi, rende perfetta la città, perché ciascuno per conto suo attende al proprio compito e non disperde inutilmente e vanamente la propria attività. Eh già, difficile pronunciare un giudizio, disse, come no? V'è dunque, come pare, per ciò che riguarda la perfezione della città, una specie di contrasto e di contesa tra sapienza, temperanza, fortezza e il dovere che incombe a ciascuno di attendere al proprio compito. Sì, rispondeva. Insomma, metteresti una rivalità tra queste virtù e la giustizia per ciò che concerne perfezione della città nostra? Non v'è dubbio alcuno. Osserva poi in quest'altro senso il problema per vedere se puoi arrivare alla medesima conclusione. Non vorrei affidare ai capi l'incarico di pronunciare nei tribunali le sentenze. Sì, e allora, voglio dire, in questa amministrazione del potere giudiziario, ogni sforzo dei giudici sarà rivolto a unico scopo, che ciascuno non venga in possesso di cose non sue, come d'altra parte non venga privato delle cose sue. Certo, questo sarà il precipuo sforzo, ritenendolo conforme a giustizia? Sì. Anche dunque in questo modo si viene a concludere che avere quanto ci appartiene ed è veramente nostro, come d'altra parte l'adempimento del proprio compito, è giustizia. È così. Osserva allora se la tua opinione è la stessa della mia. Un falegname cerca di fare il lavoro di un calzolaio, oppure il calzolaio del falegname. E ciò fanno, scambiandosi gli attrezzi l'uno con l'altro e le incombenze. Così anche può avvenire che un'unica persona cerchi di fare i due mestieri. Insomma, tutti questi scambi e quant'altri potrei addurre con esempi simili, ti pare che arrecheranno grande danno alla città? Eh no, rispondeva. Ma quando invece, credo, chi per sua naturale disposizione è artefice o uomo d'affari e, sollevato dal suo denaro o dal favor della folla o dalla prestanza fisica o da un'altra causa del genere, voglia cercare di inserirsi nella categoria dei guerrieri, quando un uomo di guerra, inadatto al ruolo di consiglio e di custodia, passi a trattare questi uffici e questi uomini si scambiano attrezzi e incarichi, quando una sola persona cerchi di por mano a tutte insieme queste cose, oh, allora sarai tu pure, credo, d'opinione che questo scambio e questa attività molteplice e vana finisca per essere rovina della città. Sì, senza dubbio alcuno. In conclusione, gli scambi degli uffici tra le classi, per inconsulto desiderio d'azione, costituiscono danno enorme per la città. Con buone ragioni, anzi, la si potrebbe dire operazione delittuosa e nefasta, ma senza dubbio. E questa delittuosa e nefasta operazione, la più grave che si possa commettere a danno della propria patria, non la dirai ingiustizia? Come no? Eccoti dunque, ingiustizia. Ragioniamo, del resto, inversamente così. Abbiamo dunque la classe degli affari intesa al guadagno, la classe dei guerrieri e la classe dei custodi. Quando ciascuna attende nella città alla propria incombenza e alla propria precipua attività, ciò rappresenta la condizione diversa da quella dell'ingiustizia. Si ha allora giustizia che renderà giusta la nostra città. Già, mi pare, disse lui, la cosa non può essere diversa. Esclamai, non dobbiamo ancora dir nulla con piena sicurezza, bensì è necessario ammettere che questo criterio sia adatto anche alla sfera dei singoli individui e che ivi pure costituisca giustizia. In tal caso ammetteremo anche la verità della cosa, perché non sarà possibile fare nessuna obiezione seria. Diversamente, bisognerà cercare qualche altra via di ricerca. In ogni caso, per il momento, si tratta di esperire completa l'indagine nostra. Si credeva che, se potessimo contemplare prima in un qualche ente più grande, tra quanti presentano in sé la giustizia, l'effigie di questa giustizia, più facilmente noi avremmo potuto scorgere come sia in un solo uomo la giustizia, e ci parve che quest'ente fosse la città. Per tale ragione abbiamo fondato una città, quanto è più possibile perfetta, convinti che in una città perfetta la giustizia ci sarebbe stata certamente. Quanto dunque abbiamo concluso a proposito di questa subvia, riportiamolo ora alle proporzioni dell'individuo. Così, se v'è accordo tra i due termini, tutto andrà bene. Se poi la giustizia ci apparisse diversa nell'individuo, torneremo a passare una seconda volta alla città e faremo ulteriore prova. Forse allora, considerando e reciprocamente confrontando le due forme, politica e individuale, confricandole quasi come si confricano due legni per produrre il fuoco, faremo brillare di piena luce la giustizia. E una volta divenuta chiara la visione di giustizia, avremo modo di farne sicura la presenza in noi. Oh, tu segui giusto metodo, rispondeva, e conviene far così. E allora, dissi, supponi che ci sia una cosa che noi diciamo, per una certa sua qualità, eguale a un'altra. Ma questa cosa effettivamente è più grande o più piccola dell'altra. Per questa quantità diversa, verrà ad essere anche qualitativamente diseguale, oppure, ciò nonostante, potremo sempre dire che è uguale all'altra, se si considera la qualità in seguito alla quale si istituisce tale rapporto d'eguaglianza. Eguale, rispondeva. E un uomo giusto non differirà allora in nulla da una città giusta per la presenza appunto della specie intelligibile di giustizia. Sarà anzi, come specie, eguale. Eguale. Ma una città ci parve giusta quando di tre ordini che vi sono ciascuno compie intero il proprio ufficio, invece assennata o forte o sapiente per via di altre condizioni e qualità di questi medesimi ordini. È vero, rispondeva. E quindi, mio caro, concluderemo che l'individuo, in quanto possiede nella propria anima queste medesime caratteristiche, siccome sono uguali a quelle già scoperte, possa essere chiamato con gli stessi appellativi che abbiamo attribuito alla città. È una conseguenza davvero necessaria. E cominciai. Davvero è una questione assai trita questa, nella quale, mio caro, siamo venuti a cadere trattando dell'anima. L'anima ha o no in sé queste tre caratteristiche facoltà? Non mi par davvero, rispondeva, tanto trita la questione. Forse, vedi, Socrate, è vero ciò che si dice, difficile ciò che è bello. Pare, dissi, e ben sappi, o Glaucone, che per quanto posso giudicare, la cosa non ci riuscirà manifesta del tutto se continueremo a seguire questo tramite per il quale ora procediamo. C'è infatti un metodo più lungo e più completo che a questa meta conduce. Ma forse questo nostro tramite è pur conveniente a quanto già si disse e al nostro argomento trattato. E non sei soddisfatto? Rispondeva. A me per il momento pare che vada benissimo. Sì, continuai, anche per me allora sarà sufficiente. Ebbene, non ti stancare, rispondeva, e continua a indagare. Non dobbiamo forse necessariamente ammettere che in ciascuno di noi sono le stesse tre caratteristiche e le stesse attitudini che esistono nella città? Da nessun'altra parte vi potrebbero pervenire. Sarebbe certo affermazione ridicola il credere che l'impeto violento e coraggioso del carattere non si infondesse nelle città dagli individui. Sono gli individui appunto che ne hanno in sé la causa prima, come per esempio gli abitanti della Tracia e della Scizia e in genere di tutte le regioni settentrionali. Così del resto l'amore del sapere che forse alla nostra terra dovrebbe essere attribuito in modo particolare, così l'amore per il guadagno che, si dirà invece, appartiene in sommo grado a fenici e ad egiziani. Oh, ma certo, rispondeva. Questo punto, insomma, è così, conclusi, e non riesce affatto difficile riconoscerne la fondatezza. No, certo. Il seguente problema invece apparve difficile. L'uomo compie forse questi singoli atti con un'unica e medesima facoltà? Oppure ciascuno di essi, che sono tre, viene compiuto da una facoltà propria e diversa? E in conseguenza, una ha ufficio intellettivo, un'altra ufficio di irascibile, con una terza poi sentiamo il desiderio dei piaceri del cibo, della generazione e gli altri piaceri simili a questi. O non forse piuttosto con l'anima nella sua totalità compiamo ciascuno di questi atti ogni qualvolta l'uomo si accinge a compierli? Questi sono problemi difficili se si intende risolverli come si deve. Pare anche a me, rispondeva. Allora dobbiamo cercare di definire questi atti nel seguente modo, per vedere se si tratta di un unico atto in reciproche relazioni oppure se sono atti diversi. In quale modo? È chiaro che una medesima cosa non potrà mai contemporaneamente produrre effetti contrari o subire reazioni contrarie nello stesso luogo e nello stesso rapporto. Ne avviene che, se ci riesce di trovare che negli atti di cui parliamo si verificano condizioni di questo genere, potremo saper bene che non si tratta di un principio medesimo, ma di più e diversi. E sia. Osserva ciò che ti sto dicendo. Parla. Stare immobili e muoversi si concede forse per contemporanea vicenda al medesimo ente e nella medesima parte di se stesso? In nessun modo. Facciamo in ogni caso una prova più esatta e più precisa. Non vorrei che, in un ulteriore momento, ci si presentasse qualche dubbio. Supponi un uomo immobile, in piedi. Quest'uomo intanto muove il capo e le mani. si potrebbe sempre dire che costui sia immobile e nello stesso tempo si muova. Ma noi, credo, non vorremmo accettare questa asserzione, bensì vorremmo si dicesse che una parte di lui è in movimento, una parte invece se ne sta immobile. Non è così? È così. Supponi ancora, il nostro interlocutore insiste sul suo punto e con sottile argomentazione afferma che le trottole, nella loro totalità, insieme stanno e si muovono. Quando, immobile l'asse centrale in un punto fisso, la trottola si muove con rapida rotazione su se stessa. Anzi, dice lui, la stessa cosa avviene per qualsiasi oggetto dotato di movimento rotatorio su se stesso, pur immobile attorno a un asse. Ma noi non accetteremo certo queste conclusioni. Diremo anzi che simili oggetti, per rapporto non unico con se stessi, in un senso sono immobili e in un senso sono mossi. Gli faremo anzi obiezione, perché in questi oggetti si può determinare una parte costituita da una linea retta e una parte rotonda, cioè la circonferenza, e in quanto si considera la linea retta, essi sono immobili, e in realtà non declinano da nessun lato. Se si considera la parte rotonda, invece, sono trasportati con movimento rotatorio su se stessi. Avviene poi che, quando l'asse, cioè la linea retta, durante il movimento dell'altra parte declina, o verso sinistra, o verso destra, o davanti, o dietro, allora l'oggetto non può più restare in piedi. Sì, e va bene. In conclusione, nessuno di questi argomenti potrà far colpo, per conto nostro almeno. Nessuno certo ci potrà persuadere che un oggetto qualsiasi, in quanto identico a se stesso, nella stessa parte, nello stesso rapporto, possa subire azioni opposte, oppure presentare condizioni opposte, o anche produrre effetti opposti. A me certo non farà colpo. In ogni caso, se non vogliamo essere costretti a perseguire tutte le difficoltà e dimostrare, andando per le lunghe, che non corrispondono al vero, ammettiamo pure che le cose stiano così e andiamo avanti. Basterà ammettere che, se per caso questo principio in un secondo momento ci apparisse diverso, si dovranno allora abbandonare tutte le conseguenze che ne deriviamo in questo momento. Non c'è dubbio, concludeva, conviene fare questo. Prendiamo ora, seguitai, il consentire e il negare, il desiderare di prendere e il porre un rifiuto a questo desiderio, trarre a sé qualche cosa e spingerla quindi lontano, e si potrebbe continuare. Per conto tuo, tali coppie, siano azioni, siano passioni, su questo punto non c'è differenza, le riterrai certo reciprocamente contrarie. Disse lui, contrarie. E senti allora, soggiunsi, essere assetato, aver fame e in genere gli appetiti fisici, d'altra parte, un atto di volontà o una decisione, certo metterai tutto ciò nel novero di quanto or ora si disse. Facciamo un esempio. L'anima di chi è mosso dal desiderio, ammetterai certo, si tende verso l'oggetto della sua brama e avvicina a sé ciò che desidera. Così pure, in quanto vuole che le si conceda qualche cosa, fa, come se altri la interrogasse, un cenno affermativo quasi con se stessa, in rapporto a quell'oggetto, ansiosa che il possesso della cosa non più ritardi. Certo, ma senti ancora, il rifiutare, il non volere, il non aver nessun appetito, sono tutte condizioni che dovremo annoverare in categorie contrarie alle precedenti, del rifiuto, cioè, dell'allontanare, dello spinger via dall'anima. Come no? Se così stanno le cose, diremo che vi è una categoria di appetiti. I più noti sono gli appetiti che chiamiamo appunto della fame e della sete. Diremo, disse lui, e non è forse l'uno delle bevande, l'altro del cibo? Sì. Allora la sete, in quanto sete, sarà per l'anima appetito o desiderio di cosa diversa da quanto stiamo dicendo? Un esempio. Sete è forse sete di una bevanda o calda o fredda, abbondante o scarsa? Insomma, a dirla in una parola, d'una certa bevanda così e così? O non piuttosto, se alla sete s'aggiunge poi la sensazione del calore, questa sensazione allora non porterebbe con sé forse, quale aggiunta, il desiderio di una bevanda fredda? Nel caso invece di una sensazione fredda, il desiderio di una bevanda calda? Supponi, per la partecipazione di pluralità, la sete diventa molta, ciò produrrà il desiderio di molta bevanda. Reciprocamente, se poca la sete, di bevanda poca. L'aver sete, considerato invece nella sua indifferenziazione generica, non sarà mai desiderio di cosa diversa da ciò di cui è naturalmente, d'una bevanda cioè qualsiasi, e dirai lo stesso per la fame e per il cibo. Così, concludeva, il desiderio o l'appetito, nella sua indifferenziazione generica, è desiderio di quella singola cosa, pure generica, di cui naturalmente è desiderio. Che sia poi desiderio di una cosa specifica fornita di queste o di quelle qualità, è dovuto a ragioni che s'aggiungono successive. E allora io, in conseguenza, non ci si venga a spaventare, quasi non avessimo considerato la cosa, e non ci si venga a dire che nessuno desidera una bevanda, ma una buona bevanda, e non un cibo, bensì un ottimo cibo. Certo, tutti desiderano cose buone, e quindi, se la sete è un desiderio, sarà certo desiderio di ciò che è buono, sia una bevanda, sia qualsiasi altra cosa di cui è desiderio, e allo stesso modo i desideri simili. Forse, rispondeva, ha ragione chi afferma questo. Ma bada che tutte le cose naturalmente in relazione con qualche altra sono in relazione con quest'altra cosa, in quanto si considerano fornite di una qualità. E quest'altra cosa è, a sua volta, pure fornita di una qualità. In quanto invece si considerano nella loro indifferenziazione, ciascuna si riferisce a singole cose pure indifferenziate. «Non ho capito», rispondeva. «Non hai capito», dissi, «che il più grande è di sua natura tale che deve essere più grande di qualche cosa?» «Certo, dunque, del più piccolo». «Sì, e ciò che è molto più grande di ciò che è molto più piccolo, non è vero?» «Sì, e ciò che fu un tempo più grande lo sarà di ciò che fu un tempo più piccolo, e, reciprocamente, ciò che sarà più grande di ciò che sarà più piccolo». «Ma non c'è dubbio», disse lui, «e ciò che è più rispetto a ciò che è meno, il doppio rispetto alla metà, e puoi continuare, le cose più pesanti rispetto a quelle più leggere, le veloci alle cose più tarde, e ancora le calde con le fredde. Altri esempi puoi trovare, sono simili e presentano la stessa condizione». «Certo. E ora vediamo con la scienza. Non è forse lo stesso modo? La scienza, nella sua indifferenziazione generica, è scienza di una disciplina parimenti indifferenziata, o scienza di quell'obietto qualsiasi come lo vuoi chiamare, parimenti indifferenziato, cui si rivolge la scienza. Invece una scienza determinata, e determinata così e così, è scienza di un obietto così e così, determinato e particolare. E voglio intendere una cosa di questo genere. Dal momento che vi è una scienza di costruzione di case, non è forse diversa da ogni altra scienza, sì da chiamarsi architettura? Sì, certo. E non è forse vero che in quanto è così e così, risulta quale nessuna delle altre scienze? Sì. E dunque, poiché è d'un argomento così e così, anch'essa non è forse divenuta così e così? E lo stesso si può ripetere per le altre arti e scienze. Non c'è dubbio. Conclusione, gli dissi. Credi pure che volevo pensare poco fa precisamente a questo, se davvero hai capito, cioè che per l'intera categoria delle relazioni, se si considera la cosa nella sua indifferenziazione generica, il termine relativo è da considerarsi pure indifferenziato. Se invece si considerano le cose nella loro determinazione specifica, così e così, pure la relazione è determinata specificamente, così e così. E con ciò non voglio affatto dire che i due termini della relazione si debbano ritenere uguali, quasi che la scienza di ciò che è sano e di ciò che è malato fosse pur essa sana o malata, o tantomeno che la scienza delle cose buone o cattive pur essa buona fosse o cattiva, bensì invece, poiché divenne scienza, non più dell'obietto generico di scienza, ma di un particolare specifico obietto, così e così, in tal caso accadde che divenisse pure determinata specificamente così e così, ed è questa la ragione per cui non si chiama più senz'altro scienza, ma bensì medicina, essendole stato aggiunto un determinato appellativo, così e così. «Ho capito», rispondeva, «e mi pare che vada bene». «E la sete, precisamente», gli dissi, «non la metterai nel novero delle relazioni, intendendo insomma che sete è quello che è, in quanto si riferisce a qualche cosa. In realtà la sete è... ho capito benissimo, disse lui, d'una bevanda. E quindi, se di una certa determinata bevanda, così e così, anche sarà una certa sete, così e così. Ma la sete in se stessa non è né del tanto né del poco, né del buono né del cattivo, né in una parola di qualche cosa precisa, così e così, ma della sola bevanda, essendo soltanto sete. Ma certo, è proprio come dici. In conclusione, l'anima di chi ha sete, in quanto ha sete, non desidera altra cosa se non bere, a ciò soltanto aspira e verso ciò si tende. Certo, è chiaro. Dunque, se qualche cosa la trattiene, sitibonda com'è, e la distoglie, ci deve essere in quest'anima qualche cosa diversa dall'impulso sitibondo che l'induce, come bruto, a bere, perché stiamo dicendo appunto. La medesima cosa nel medesimo istante non può agire in modo opposto a se stessa e con la stessa azione, con lo stesso fine. Eh no, certo. Avviene, credo io, come per l'arciere. Non è giusto dire che nello stesso istante le sue mani tirano e rallentano l'arco, ma bensì che una mano rallenta e che l'altra tira. Indubbiamente, sì, rispondeva. E possiamo forse dire che vi sia chi talvolta, pur avendo sete, non vuole bere? Senza dubbio, rispondeva, molti e molte volte. Che cosa dunque, dissi io, si potrà concludere su questi fatti? Non forse che vi è certo nell'anima una forza che sospinge a bere, ma che vi è anche una forza che pone un suo divieto? Una forza diversa dalla prima e superiore e dominante sulla forza che sospinge? Mi pare di sì. E non è forse vero che la forza inibente sorge, quando sorge, da un ragionamento? Mentre invece quella forza che conduce e attrae procede da condizione di passività o di malattia. Evidente. Allora, non a torto, soggiunsi, concluderemo che si tratta di due facoltà reciprocamente diverse, e chiameremo la potenza con cui l'anima ragiona facoltà ratiocinatrice dell'anima. La potenza invece con cui ama, ha fame e ha sete è continuamente trasportata a concepire sempre nuovi desideri, facoltà irrazionale del concupiscibile, amica d'adempimento e di piaceri. Non senza ragione, rispondeva, ma giustamente saremo portati ad ammettere questa conclusione. E allora, terminai, dobbiamo senz'altro porre per entro l'anima queste due potenze. Poi gli dissi, in quanto alla facoltà che presiede invece agli impulsi, facoltà dell'irascibile, dobbiamo porla come terza, oppure a quale delle due facoltà già dette sarà per natura uguale? Forse, osservò, è uguale a una di quelle, alla facoltà del concupiscibile. Ma, dissi io, una volta ho udito un certo racconto e lo credo vero. Un certo Leontio, figlio di Aglaione, veniva in su dal Pireo lungo il muro settentrionale, dalla parte esterna. S'accorse a un certo punto che c'erano alcuni cadaveri presso il carnefice. Nello stesso tempo egli desiderava ardentemente vederli e nello stesso tempo ancora si dispiaceva e cercava di distogliersene. Per un certo tempo repugnò e chiuse gli occhi. Poi fu vinto dalla concupiscenza. Allora spalancò gli occhi e giù, di corsa, davanti ai cadaveri. Eccoli qua, a vostro uso, gridando. Ecco, o sciagurati, saziatevi di questo magnifico spettacolo. L'ho sentito anch'io, soggiunse, questo racconto. In ogni caso dimostra bene che il generoso impeto dell'irascibile combatte talvolta contro la concupiscenza, come altra natura contro altra natura. Sicuro, dimostra, rispondeva. Del resto, dissi, vi sono anche altri casi numerosi nei quali le passioni portano talvolta a far violenza contro la facoltà razionale. Allora, vediamo che quest'uomo offende se stesso e s'adira contro ciò che in lui agisce a violenza. Quindi, come se ci fossero due uomini che lui contendano, l'irascibile di quest'uomo si fa alleato alla ragione. D'altra parte, sono sicuro, non dirai che in te sia avvenuto e che tu abbia avuto sensazione di questo impulso irascibile fatto compagno della concupiscenza, quando ormai la ragione abbia deciso che la cosa non si deve fare. Così, del resto, nemmeno in altri. Eh no, per dinci, esclamò. E E senti un po', il caso invece in cui si sia convinti di avere torto? Avviene precisamente che quanto si è più generosi, tanto meno ci si adira, anche se costretti a soffrire fame e freddo o qualsiasi altra sofferenza per opera di chi, secondo il nostro giudizio, agisce giustamente. Come dico appunto, la nostra volontà è decisa di non destare contro costui il proprio impeto irascibile. È vero, assentì. E cosa avviene invece quando si ha convinzione di essere trattati ingiustamente? Allora tutto in noi ribolle. L'uomo s'adira e combatte alleato a ciò che appare giustizia. Attraverso fame, freddo, attraverso ogni sofferenza, resiste e vince e non desiste dal suo proposito, se non vittorioso oppure caduto. Anche, come cane dal pastore, viene trattenuto dalla voce del padrone che lo chiama e viene fatto mite dal razionale discorso che in lui alberga. «Sì», rispondeva, «proprio un'immagine giusta. È un fatto. Nella nostra città abbiamo stabilito che le guardie fossero obbedienti ai custodi capi dello Stato quasi cani ai pastori. Segui perfettamente il mio pensiero, ma non devi forse badare anche a quest'altra considerazione? Quale? Per quanto concerne il generoso impulso dell'irascibile, in questo momento esso ci appare il contrario di prima. Poco fa, infatti, credevamo che fosse cosa pertinente alla concupiscenza. Ora invece scopriamo che non è così. Anzi, piuttosto diciamo che, quando l'anima si trova in dissidio, quello pone le sue armi a disposizione dell'elemento razionale. Benissimo. E allora l'irascibile è forse diverso dall'elemento razionale, oppure ne è una specie particolare? Ne verrebbe di conseguenza che le potenze dell'anima non sono più tre, bensì due, facoltà razionale e concupiscibile. O invece, a quella guisa che nello Stato tre sono le classi che lo compongono, la classe del guadagno, delle armi, del consiglio, così anche nell'anima l'irascibile non costituisce forse la terza potenza. Ed è potenza seguace naturalmente alla potenza razionale, salvo sempre il caso che, malamente educatolo, se ne alteri la naturale propensione. Necessariamente, rispondeva, terza potenza. Sì, dissi, purché ci appaia diversa dalla potenza razionale, a quella guisa che è diversa dalla potenza concupiscente. Ma non è difficile, rispondeva, che appaia diversa. Lo si vede bene anche nei bimbi. Subito, fin dalla nascita, sono pieni di impeti e di impulsi. Invece mi sembra che la potenza razionale taluni non l'acquistino mai, i più assai tardi e talvolta. Oh sì, esclamai, dici benissimo. E ancora si può vedere negli animali quanto affermi. Inoltre, anche il verso che abbiamo citato, sai bene, poco fa, quel verso di Omero, ci darà buona testimonianza. Sul petto batteva e dal cuore diceva parola. In questo luogo Omero, è ben chiaro, ha rappresentato l'una potenza diversa che rimprovera l'altra, pure diversa, la potenza razionale, che discerne il consiglio migliore e quello peggiore, rimprovera appunto la potenza irascibile, estranea al discorso e alla ragione. Perfettamente, rispondeva, hai proprio ragione. Concludendo, dissi io, con fatica potemmo valicare a nuoto questo mare, e siamo d'accordo che nella città vi sono le stesse potenze come nell'anima individuale, ed eguali poi di numero. È così. Allora ne deriva, per necessaria conseguenza, che la città sia sapiente e lo sia per quello stesso mezzo col quale anche il singolo uomo è sapiente. Sì, certo. E con quel mezzo e con quel processo per cui il singolo uomo è forte, con tale mezzo e con tale processo anche la città è forte. E le altre virtù tutte sono, per l'individuo e per lo Stato, nello stesso rapporto. Necessariamente. E allora diremo, o Glaucone, che un uomo è giusto nella stessa maniera nella quale anche una città è giusta, anche questa conseguenza necessaria. Ma non ci siamo certo dimenticati che la città è giusta per il fatto che ciascuna delle tre classi attende alla propria operazione. Non credo certo che ce ne siamo dimenticati. In ogni modo bisogna ricordare che, in quanto le singole facoltà compiano ciascuna la propria missione, ciascuno di noi sarà giusto e ciascuno compie pure la propria missione. Ma certo, disse lui, bisognerà tenere a mente la conclusione. Allora, alla potenza razionale conviene dominare. È sapiente e ha possibilità di provvedere per l'anima nella sua totalità. Invece alla potenza irascibile conviene l'essere subordinata e alleata a quella prima. Certamente. E non è forse vero che, come dicevamo, una giusta contemperanza d'attività musaiche e ginniche ne assicurerà un'opportuna armonia? E l'una potenza sarà esaltata e nutrita con discorsi elevati e belli e per mezzo di cognizioni, l'altra invece con dolce persuasione sarà rallentata e resa mite per mezzo d'armonia e di ritmo. Senza dubbio, disse lui. E per tal modo tutte e due, nutrite e istruite per mezzo di cognizioni adatte e per tal mezzo educate, potranno presiedere alla potenza concupiscente, la quale in ciascuno ha importanza grandissima ed è per natura la più insaziabile. E le due prime debbono custodire tale potenza del concupiscibile, perché questa, ingurgitandosi nei cosiddetti piaceri materiali, diverrebbe eccessiva e troppo forte, non attenderebbe più al suo particolare compito, ma cercherebbe di sottoporre a sé le altre facoltà, quasi schiave, e di dominarle, il che non le si addice per natura, nel qual modo l'intera vita finirebbe per essere sconvolta. Certo, rispondeva. E cosa credi? Gli dissi. Queste due facoltà potranno esercitare buona guardia anche di fronte ai nemici esterni per vantaggio dell'anima tutta quanta e anche del corpo. E l'una darà consigli e direttive, l'altra combatterà a difesa, subordinata tuttavia alla facoltà reggente, con la propria fortezza adducendone a realtà i consigli. È così. E per questa facoltà dell'irascibile chiamiamo forte, credo, ciascuno di noi, quando essa porti a compimento, attraverso piaceri e dolori, il decreto della ragione su ciò che si deve e su ciò che non si deve temere. Sì, va bene. Sapiente, poi, per quella piccola parte con cui ciò che domina in noi dà anche annunzio di quanto si deve e non si deve temere. E questa parte sa quanto giova a ciascuna potenza e all'intera comunità di queste potenze, che sono in numero di 3. Certamente. E senti un po', non saremo forse temperanti per l'accordo e per l'armonia di queste stesse potenze? La parte reggente e le due parti subordinate saranno convinte che il dominio compete alla facoltà razionale e che all'imperio di questa non debbono ribellarsi. Già, è vero, disse lui, temperanza non è altro che questo in una città e in un uomo singolo. Tuttavia, giusto, nel modo che più volte veniamo dicendo, è conseguenza necessaria. E senti allora, continuai io, vediamo forse confusamente la specie individuale di giustizia in modo da non poter concludere che si tratta della medesima giustizia che abbiamo individuata nella città. Non mi sembra, rispondeva. E se qualche dubbio in noi ancora rimane, potremo sicuramente rassicurarci, applicando al singolo fatto qualche esempio comune. Quale esempio? Supponi che si discutesse di questa nostra città, e così pure di quel singolo uomo, naturalmente dotato e allevato in modo conforme alla costituzione di quella. Ci sembra possibile che una tale persona prenda un deposito d'oro o d'argento e poi voglia defraudarne il vero possessore? Chi potrà pensare che un tale uomo commetta questo furto? Bensì lo commetteranno quelli che non sono come lui spiritualmente formati. Nessuno potrà pensare a questo. Allora costui sarà superiore a ogni sospetto di saccheggio di templi, a ogni sospetto di furto e di tradimento, a danno d'amici nella vita privata e dello Stato nella vita pubblica. Superiore. E così pure non sarà nemmeno capace di spergiuro, nemmeno tradirà la parola data. Come potrebbe farlo? Adulteri e abbandono di genitori e negligenza nei doveri religiosi potranno convenire a tutti gli altri, ma a lui no. A tutti, sì, rispondeva. E non è forse unica la causa di tutte queste caratteristiche? Perché le sue interiori facoltà adempiono al loro preciso compito, ciascuna esercitando dominio oppure obbedienza. Sì, è questa e nessun'altra la causa. E vai forse cercando ancora se giustizia sia qualche altra cosa e non questa capacità che rende così disposti gli uomini singoli e così pure gli stati? In nome del cielo, disse lui, non cerco più. In conclusione, ecco, È tutto fatto realtà quel nostro sogno. Si diceva di aver l'impressione che subito, in quella che ci si poneva a fondare la nostra città, con l'aiuto di un qualche dio, ci saremmo forse imbattuti in un elemento o in una qualche immagine di giustizia. Non c'è dubbio alcuno. E ciò che abbiamo trovato era appunto, o Glaucone, e per questo il trovamento ci è stato così utile, un'immagine prossima di giustizia. Secondo quest'immagine, il calzolaio, tale per natura, doveva accudire a fare scarpe e non doveva far altro. Così pure il falegname doveva lavorare il legno e così altri esempi. Evidente. E difatti la giustizia individuale è davvero qualche cosa di questo genere, ma non rivolta all'azione esteriore, bensì all'uomo interiore, veramente a noi stessi e alle cose nostre. In conseguenza, non si deve lasciare che un elemento della nostra vita interiore compia ciò che spetta invece a un altro, e nemmeno che queste potenze dell'anima contrastino tra loro con un'attività eccessiva e fuori luogo. Al contrario, bisognerà infondere in tutte un ordine perfetto, reggere veramente il dominio di se stessi e far di sé un cosmo in cui sia presente sovrana l'amicizia. Bisogna armonizzare le tre potenze elementari, quasi le tre note fondamentali dell'armonia, l'ottava, la tonica, la dominante, e con queste armonizzarne altre, se ve ne sono intermedie. Bisogna, insomma, a queste note legarle insieme e divenire assolutamente un uno, componendo i molti di cui siamo formati. Un uomo temperato, un uomo dotato di interiore armonia. E tali essendo divenuti, rivolgersi finalmente all'azione, nel caso che qualche cosa pur si debba compiere con l'azione, o interessi finanziari, o esercizi fisici, o attività politica, o attività di qualsiasi professione. E in tutte queste azioni si deve ritenere e chiamar giusta e bella un'unica azione, quella che mantiene e aiuta il formarsi di questo interiore stato dell'anima. Si chiamerà poi sapiente la cognizione che a ciò presiede. Reciprocamente, azione ingiusta, quella che tale condizione dissolve. Ignoranza, l'opinione che a tale secondo atto presiede. Socrate, hai perfettamente ragione. E sia pure, dissi, se ora venissimo a dire d'aver già trovato il giusto individuo e lo stato giusto e ciò che è la giustizia in essi presente, non credo certo che avremo l'impressione di dir menzogna. No, davvero, rispondeva. Dobbiamo dunque dirlo? Diciamolo, via. E va bene. Ora si tratta di volgere la nostra indagine, mi pare opportuno, sull'ingiustizia. Certo, in conclusione, l'ingiustizia deve essere una discordia di queste tre facoltà, un'attività dispersa e troppo varia, quando una facoltà invade il campo di un'altra, una vera e propria ribellione di una contro l'intera costituzione dell'anima, allo scopo che questa singola acquisti una preponderanza che non le spetta, mentre invece per sua natura particolare dovrebbe essere sottoposta a un'altra superiore facoltà che è di stirpe regale. Da questa condizione pressappoco e dalla confusione e dallo sconvolgimento conseguente provengono, affermeremo, l'ingiustizia, la sfrenatezza, la viltà, l'ignoranza, in una parola, insomma, tutta la malvagità. Oh, è proprio così, rispondeva. E non è forse vero che tanto la condotta ingiusta, quanto l'offesa fatta ad altri, come pure reciprocamente l'opera giusta, tutto ciò appare ormai in luce ben chiara, dato che chiaro abbiamo pure il concetto di ingiustizia e di giustizia. Come mai? Perché, dissi, giustizia e ingiustizia non presentano diversità alcuna da cose salubre e da cosa recante nocumento alla salute, solo che quest'ultime cose si considerano nel corpo, le prime nell'anima. Come? Rispondeva. Le cose salubri infondono salute, le malsane portano morbi. Sì, e l'opera giusta non infonde giustizia, l'ingiusta invece ingiustizia? Necessariamente. E produrre salute è appunto fare in modo che le facoltà dell'organismo, disposte secondo natura, possano reciprocamente esercitare dominio e accettare subordinazione. Si produce malattia invece quando queste facoltà, contrariamente alle leggi di natura, governano oppure subiscono un dominio di altre, parimenti contro natura. Certo, rispondeva. Insomma, virtù, come pare, è una certa condizione di salute, di bellezza e di benessere per l'anima. Malvagità, invece, malattia, bruttezza, malessere. È così. E non è anche vero che le occupazioni oneste portano all'acquisto di virtù, le disoneste invece all'acquisto di malvagità? È necessaria conseguenza. E allora ci rimane soltanto, come pare, da stabilire se è conveniente comportarsi secondo giustizia e attendere occupazioni oneste ed essere giusti, tanto se la nostra virtù potrà avere un riconoscimento quanto nel caso contrario, o se sia conveniente invece commettere ingiustizia ed essere ingiusti, nell'eventualità poi che non si arrivi a dar giusta espiazione della propria colpa e non si possa migliorare la propria condotta attraverso la pena. E Glaucone: mi pare, Socrate, che l'indagine sarebbe ridicola ormai. S'ammette che, se l'organismo viene a ridursi in condizioni precarie, nemmeno valga la pena di vivere, anche se si vivesse in mezzo ad abbondanza di cibi e di bevande, colmi di denaro e potenti per autorità illimitata. E quando il principio fondante della nostra vita è nella sua stessa natura tutto sconvolto e ridotto a rovina, quale valore potrà avere ancora la vita? Quando si fa tutto ciò che si vuole, ma non si fa quell'unica cosa che si dovrebbe fare, cercare un mezzo per liberarsi da malvagità e da ingiustizia, un mezzo per acquistare giustizia e virtù. Non si sfugge da queste conclusioni, dato che virtù e giustizia, l'una e l'altra, ci si sono rivelate conformi a quanto si vide. Certo, sarebbe da ridere. In ogni caso, siccome siamo ormai giunti a questo punto, non dobbiamo desistere, ma consideriamo il problema nel modo più chiaro possibile per vedere bene se la cosa sia proprio così. Si capisce, rispondeva, guai a stancarsi. Ecco qua dunque, continuai, si tratta di vedere quante specie abbia anche la malvagità, quelle almeno degne di considerazione. Ti seguo, soltanto parla. Vedi, anzi, dissi, ora siamo arrivati a un punto molto alto. Si vede, come da un osservatorio, che il tipo della virtù è unico. In numeri, invece, i tipi di malvagità. Quattro, tuttavia, pressappoco, quelli di cui vale la pena far ricordo. Come mai? Quanti i tipi di costituzione politica, altrettanti forse i tipi nell'anima. Quanti sono? Cinque tipi di costituzione politica e cinque costituzioni nella interiorità individuale. Esponi quali sono. Affermo, continuai, che questo da noi esposto è uno dei tipi di costituzione politica. Può tuttavia essere indicato per due modi. Quando c'è una sola persona che ha autorità sui vari magistrati, la Costituzione si potrà chiamare monarchica, se si tratta di molti, aristocratica. È vero, rispondeva. Questo di cui ti dico è un unico tipo, perché, sia nel caso che molti pervengano al potere, sia che si tratti di uno solo, in nessun caso, né i molti né l'uno faranno novità nelle leggi essenziali della città, seppur allevati ed educati nel modo già esposto. Già, non è possibile, rispondeva.